tu lo sai che devi leggere i mercati, Deborah, invece che parlare di scaffali. Vedi che allora è giusto che io abbia sempre fame, perché guarda quanto lavoro. Dobbiamo farmi mancare il nutraceutico, dottor colesterolo, dottora Volete. Dottora Valente, perché voi questa mattina capitate, come si dice, a fagiolo, ecco. Cioè addirittura chi salta i pasti per risparmiare calorie, questione per me incomprensibile. Giovanni, non ridere. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Dai, ti do subito qualcosa da fare, perché tu canti, balli. Sì. Ti voglio concentrata. Mi concentro. Allora, mano destra, perché tu non sei mancina. Come te. Bene. Appoggi i 4 polpastrelli direttamente sulla parte inferiore del polso sinistro, naturalmente. Sennò come fai? Ci sono, giusto? Ci sono. Li senti? I battiti? Sì. Li sento bene, sì. Ok. Tutto a posto? Tutto a posto. Se ti viene invece più facile, potresti... Sei comoda così? Sono comoda così, però c'è un'alternativa? Sì, potresti appoggiare i polpastrelli di indice medio sul collo, sotto la mandibola, lateralmente. Sento meglio qui. Ti qui sono più evidenti, sì. Bene, allora, mia bella donna di denari, oggi i conti li fa la donna di cuore. Guarda l'orologio, ce l'hai proprio lì davanti. Sì. Conta il numero dei battiti per 15 secondi. E poi moltiplica per 4. Ah, intanto che tu presenti la nostra ospite, io mi cimento nel conteggio. Ti ho dato un compitino e noi andiamo a salutare la dottoressa Lidia Rotavender, presidente di ALT, l'associazione lotta alla trombosi e alle malattie cardiovascolari, e responsabile centro previsione prevenzione cardiovascolare di Humanitas. Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. Oggi sarà qui con noi, la chiameremo dottoressa trombosi. Ma che non è male. Allora, oggi l'abbiamo invitata qui con noi. Ho contato intanto, 17. Stai lì. Faccio la moltiplicazione. Sì. Per prevenire anche i batticuore che la notizia del calciatore Biabiani ha scatenato. 800 24 00 24, se volete sentire il vostro cuore con noi. Per quanto riguarda... il corso di Biabiani, di Biabiani, ha fatto una visita al 10 luglio a Parma e ha ottenuto e da tutt'oggi l'idoneità sportiva. Successivamente, il 1 di settembre, durante una visita svolta con il possibile trasferimento al Milan, è comparsa una aritmia mai registrata precedentemente. Ecco, questo era Pietro Leonardi, amministratore delegato del Parma, che fa il punto della situazione riguardo al caso di Jonathan Biabiani. Ascoltate il vostro cuore, se avete ascoltato la notizia, molti di voi ci hanno scritto un po' preoccupati, soprattutto mamme di bambini che praticano attività sportiva, ma anche molti sportivi amatoriali si sono messi in contatto con noi. Oggi facciamo il punto della situazione, partiamo dal nostro cuore, ma la parola chiave di oggi è ritmo. È ritmo, sì, e oltre a sentire il ritmo del nostro cuore, naturalmente la donna di denari vi inviterà a fare qualcos'altro, perché il ritmo è un movimento che caratterizza anche i mercati finanziari, e quello dei mercati difficilmente è un ritmo costante. Oggi nella seconda parte del nostro programma vi spieghiamo come i cambiamenti del ritmo dei mercati condizionano i guadagni e le perdite, e quindi di quello che risparmiamo o investiamo. 800 24 00 24, se avete investito un piccolo gruzzolo o se avete in mente di farlo al più presto, oggi riapriamo l'anno scolastico della nostra scuola di risparmio. Facciamo il punto, lo ricorderete, sul portafoglio di Nicoletta, ma oggi anche la sottoscritta si cimenterà con un portafoglio nuovo di zecca. Il cuore ha schematicamente la forma di un tronco di cono schiacciato, simile ad una piramide rovesciata. È lungo circa 12 cm dalla base all'apice, largo 9 cm nella sua parte più larga. Il cuore di un neonato pesa poco più di 20,8 grammi, ma in circa 11 anni aumenta di 8 volte il suo peso, sino a raggiungere circa i 300 grammi nell'uomo e i 250 nella donna. Pompa mediamente tra i 5 e i 6 litri di sangue al minuto e poi batte in un minuto tra 60 e 90 volte. In un giorno 86.400. In un mese 2.592.000. In un anno 31 milioni. Grazie al suo lavoro riesce a far vivere bene tutti gli altri organi a cui fornisce generosamente l'ossigeno. E allora cosa vogliamo di più? Cosa deve fare di più per meritare le nostre attenzioni? Molte volte siamo più attenti al motore della nostra macchina, al più piccolo rumorino, che al nostro cuore, ma in ogni caso si può sempre imparare, la prevenzione si impara, e quindi vi invitiamo a restare con noi 800 24 00 24 a prendere il ritmo. Volete restare con noi e dirci se avete contato i battiti del vostro cuore? Carmelo Lauricella, Deborah ti ha battuto perché sì, mi ha detto in cuffia 64, no, ho sbagliato, 72. Tu che numeri dai oggi? Ho fatto 17 in 15 secondi, per cui 68. Allora, dottoressa Rotavender, possiamo star tranquilli? Abbiamo preso i battiti di Carmelo Lauricella e i battiti della nostra donna di Denari. Uomini, donne, allora, possiamo stare tranquilli sul numero, che sono il numero è buono. Non sappiamo come ha battuto, però, cioè sappiamo che ha fatto un certo numero di battiti, ma non sappiamo con quale ritmo, quindi se il ritmo è stato costante oppure se ha fatto qualche salto, qualche pausa più lunga. Invece questo è una parte molto importante, quindi il numero e il modo. E aggiungiamo infatti questo ulteriore dettaglio, tra virgolette, perché è un dettaglio che fa la differenza. Come batte? A un ritmo accelerato, un po' rallentato, salta, fa delle interruzioni, rotola? Mi è sembrato tutto regolare, però adesso che me lo avete fatto osservare, io magari replico il conteggio e mi concentro di più sulla qualità del battito. Lo farà anche Carmelo, immagino. Bene, fatelo anche voi. Intanto con la dottoressa Rotavender ci occupiamo della cronaca. Biabiani è stato fermato, l'abbiamo sentito, per un'aritmia cardiaca. Non vogliamo parlare del caso specifico perché non abbiamo elementi per farlo, ma dottoressa, la storia ci aiuta a fare alcune considerazioni. La prima, che si tratta di un ragazzo giovane. Esatto, e soprattutto non vogliamo dare qua un parere medico, ma vogliamo approfittare di questa notizia per rimettere un po' insieme i pezzi, sì, e anche un po' i pezzi del puzzle. Il cuore, senza cuore non c'è vita, anche senza cervello non c'è vita. Noi li consideriamo i due organi nobili del nostro organismo, di fatto poveri organi, ogni organo ha la sua nobiltà. Il cuore incomincia a battere, fa quel numero spropositato di milioni di battiti in un anno, se poi lo moltiplichiamo per il numero degli anni in cui stiamo al mondo e i 9 mesi durante la vita fetale, immaginiamoci quale usura. Questa usura si può manifestare nel sistema idraulico del cuore, che sono le coronarie, che tutti sanno cosa sono, ma ribadiamo, sono le arterie, quindi i vasi, l'idraulica che porta sangue al muscolo cuore. Se le coronarie sono malate, il cuore ha delle piccole cicatrici e i fili elettrici del sistema elettrico del cuore, passando in queste cicatrici, si comportano come i fili elettrici di casa quando c'è una perdita d'acqua, quando c'è l'usura del tempo. Quindi è importante che il cuore batta con un ritmo regolare, che batta sapendosi adattare alle situazioni. Se ci emozioniamo, se ci spaventiamo, il cuore ci mette un attimo a reagire, ma questo serve perché deve portare sangue più velocemente e più efficacemente ad organi che sono in quel momento coinvolti, il cervello per esempio. Ci tremano le gambe perché c'è stata una sparata di adrenalina da parte delle surrenali che immediatamente parlano col cuore, il quale reagisce e il nostro corpo vibra. Quindi è un organo ad altissima reattività, è un organo che pretende così poco in fondo, perché ce lo dimentichiamo addirittura, e che invece meriterebbe, secondo me, un investimento più attento, giusto visto che parliamo. È un ritorno sull'investimento, ROI, come lo chiamano gli addetti ai lavori? Il ROI, la prevenzione, un investment straordinario, perché fare prevenzione e conoscere il proprio cuore è il primo passo. E più che ricorrere immediatamente degli esami sofisticati, imparare ad ascoltarlo. Quindi un ritorno sull'investimento enorme che non possiamo più rimandare, perché il numero delle persone che andranno incontro a un evento cardiovascolare nei prossimi 15 anni è spaventoso e nessun governo se lo potrà permettere di assistere a tutti questi nati. Quindi dobbiamo fare da soli, ognuno per sé. I costi sono altissimi, dottoressa. Sì, sono spaventosi. In Europa vengono spesi circa... Abbiamo speso nel 2008 110 miliardi di euro per le cure e 82 miliardi in un anno soltanto per la perdita di produttività. Questo a livello sociale. A livello familiare è spaventoso, perché se noi pensiamo che ogni persona che viene colpita e si ammala perde la sua presenza nella famiglia, perde il suo ruolo nella famiglia, perde il suo ruolo nella società. C'è un concetto bellissimo, che è quello del capitale invisibile, che ognuno di noi rappresenta per coloro che gli vivono accanto, ed è un capitale non quantificabile in termini di denaro, ma certamente un capitale importante. Quindi merita questo investimento, lo dobbiamo fare però conoscendolo. La nostra parte di lavoro, con la squadra dei medici che eventualmente saranno a disposizione nella nostra vita, il nostro pezzo lo dobbiamo fare noi, ed è conoscere, sapere, cercarlo, trovarlo, sentirlo. Beh, è così facile. Io invece di quattro dita ce ne metterei solo due, perché secondo me si sente meglio. Ennio ci suggerisce, a proposito, per ascoltare il nostro battito, misurarlo, che non è consigliabile misurare sui 15 secondi e moltiplicare per 4. È opportuno fare conto su 30 secondi e moltiplicare. Ognuno dice la sua opinione, più preciso di due o tre battiti, non è che cambia tanto. Ecco, quello che noi vogliamo invitarvi a fare oggi, prendendo proprio spunto non solo dalla notizia di cronaca, ma anche anticipando la giornata mondiale del cuore, che si celebrerà domenica. La prossima domenica, perché a cuore denari siamo concreti, vogliamo dare consigli, di fate come fa Deborah, sentite il vostro cuore. Lei, che è una donna di denari, fa un ottimo investimento. Ho fatto questo conteggio stamattina, mi sono cimentata con cose diverse rispetto al denaro, ma insomma sempre ottimamente, come diceva la dottoressa Rotavender, un investimento molto importante. Poi dicevamo, dottoressa Rotavender, che Bia Biani è giovane, certo. E quindi invece spesso si pensa che il cuore dia problemi solamente alle persone anziane, perché è usurato dagli anni. Parliamo di uno sportivo, ma Deborah, non uno sportivo della domenica, partiamo da uno sportivo coi fiocchi, quindi uno sportivo che è stato sicuramente sottoposto a molti esami, ma noi siamo abituati a pensare che il cuore si può ammalare o molto presto, e sono le cardiopatie congenite che conoscevamo molto bene in passato, di cui adesso si parla meno perché per fortuna molti chirurghi sono diventati molto abili nel correggere questi cuori che nascono malformati, e poi si parla del cuore dell'anziano, poi c'è tutta una categoria che sarebbero tutti gli altri, che sono tanti, che possono avere dei disturbi nell'andare del tempo. La scienza è diventata più sofisticata, gli strumenti sono molto più accurati, quindi non deve stupire il fatto che si possa oggi diagnosticare qualche cosa che 10 anni fa non eravamo capaci di diagnosticare, e non deve nemmeno stupire che un giovane sportivo controllato, rivoltato come un calzino in tutti questi anni, improvvisamente manifesti un'aritmia. Ci sono tante ragioni per cui un disturbo del ritmo del cuore può insorgere. La più banale è, la vogliamo dire, la gastrite, l'esofagite del reflusso ce l'hanno quasi tutti ormai col tipo di vita che facciamo. Quando lo stomaco si gonfia o l'intestino si gonfia, il diaframma si alza, il cuore poggiato sopra questo muscolo a cupola che si chiama diaframma è seccato da questa scossa, da questa botta che prende, può dare dei battiti anomali, ma queste non sono necessariamente sempre aritmie, ma possono esserlo. Quindi ci sono mille ragioni per cui improvvisamente un giovane ben seguito, ben curato, può manifestare un'aritmia. È meglio averlo saputo ora per evitare dei problemi in futuro. All'inizio va lento, sì. Poi aumentiamo gradualmente la velocità e l'inclinazione. Se dovessi avvertire dei dolori al petto o affanno e fatica eccessiva, facci un segnale, va bene? Vabbè, d'accordo, cominciamo. Come ti senti? Bene. Non mi sembra, Cliff. Sì. Te la senti di continuare? Sì, ma da quanto tempo sto correndo? 11 minuti. Qualcun altro ha resistito così a lungo? Allora, partiamo, dottoressa Rottavender, sottolineando e ripetendo che lo sport è amico del nostro cuore. Certo. Lo abbiamo detto tante volte, ci sono, fa tante cose buone lo sport per la nostra salute, per il nostro benessere. Lo sport è una forma di attività fisica che noi dovremmo fare come attività fisica sempre. Incominciamo a farla anche quando siamo nati sgambettando. Il neonato sgambetta, è la prima cosa che fa, e che dovremmo continuare a fare nell'arco della nostra vita per tenere in esercizio tutti i pezzi che abbiamo. Ecco, detto questo, anche chi pratica sport deve avere cura del suo cuore, deve imparare ad ascoltarlo e deve evitare di trascurare dei segnali, ma per sapere se sono da trascurare o se sono segnali da non sottovalutare deve partire dalla base, bravo, dalla conoscenza. Allora, agli sportivi e a cuore denari, vero Deborah, ne abbiamo molti. Sì, vengono molto volentieri nel nostro programma. Chiediamo che cosa, se e quando hanno controllato il loro cuore, quali visite, quali esami hanno fatto, ma soprattutto quali sono i segnali che non devono sottovalutare o quali segnali invece danno loro preoccupazioni. Sappiamo che quando facciamo esercizio fisico il cuore va in gola, è normale, no? Perché facciamo, però ecco, partiamo dagli sportivi, da chi corre, da chi va a fare pesi, invitiamo anche le mamme all'ascolto, mamme che magari hanno ricevuto dallo specialista l'avvertenza, guardi che suo figlio stia tranquillo ma un soffio al cuore, allora le mamme vanno in fibrillazione a proposito, allora, dicono, esatto, dicono un effetto domino, sarà da fare, se potrà fare lo sport, quindi apriamo questo capitolo sport e cuore. Io penso che dobbiamo stare attenti a non trasmettere un messaggio di ansia alle mamme, nel senso che dobbiamo anche alle mamme chiedere di essere informate, ma non iper preoccupate. I bambini sono capaci di sentire il battito del cuore, basta che noi glielo insegniamo, e non gliel'abbiamo mai insegnato perché nessuno ci ha mai pensato. Anche le persone di una certa età non sono capaci. Durante una mia visita a Bruxelles nell'ambito di una campagna europea di prevenzione, ricordo di aver chiesto a un deputato se sapeva dove sentire il suo cuore, è rimasto con gli occhi basiti e non sapeva dove trovarlo. Quindi cominciamo a insegnare ai nostri bambini dove devono sentire il cuore, ma questo senza ansia, è come un magnifico strumento che loro hanno, lo sentono perché ogni tanto se lo ascoltano. Le donne che sono un po' anemiche, per esempio, si sdraiano la notte sul cuscino e sentono il cuore che batte nell'orecchio, e questo batte regolare. Vero? Ti capita anche a te? Mi è capitato anche nei periodi di particolare questo down di ferro. Non è una malattia, è soltanto che il cuore sta battendo un po' più rapido perché siccome è meno ricco di ossigeno ha bisogno di portare di più, quindi il cuore è un organo intelligente e si adegua a quello che gli chiediamo. Se noi diventiamo sportivi o cominciamo a fare sport, a questo cuore chiediamo di allenarsi esattamente come a un altro muscolo. Se noi solleviamo dei pesi, i nostri muscoli si ingrandiscono, si inspessiscono, diventano più forti, il cuore fa la stessa cosa. Quindi è un muscolo che deve essere allenato per fare il minimo che deve fare, è un muscolo che può fare molto di più di quello che gli chiediamo se gli diamo un allenamento costante e gradualmente in aumento. Tutti sanno che Fausto Coppi aveva una frequenza cardiaca bassissima ed era per questo che riusciva a scalare le montagne, ma era arrivato lì perché era allenato. È inutile andare a cercare un numero fisso nei battiti, certo, del cuore. Noi sappiamo che fra 60, 55, 80 battiti ci sta. L'importante è il ritmo, quindi anche nel ritmo ci possono essere dei salti. Altro esempio, le donne che verso i 50 anni potrebbero avere dei problemi alla tiroide, che è una ghiandola un po' disturbante, perché nelle donne spesso impazzisce, guarda caso impazzisce quasi solo nelle donne. Ecco, le persone che hanno un disturbo alla tiroide spesso hanno delle aritmie, quindi impariamo a sentire il ritmo, non spaventiamoci se salta un battito, sentiamolo ancora dopo aver fatto dei respiri profondi e avere disteso il diaframma. Deve battere regolare, esattamente come un tamburello. Andiamo allora intanto, bravo, a qualche messaggio, sì, e poi anche alle numerose telefonate. Comincio con leggere quello che ci scrive Nino da Gioiosa Marea, un nostro appassionato quotidiano, ostetrico, 54 anni, sportivo da sempre, ciclista regolare. A qualche puntata dice lui di extrasistolia, non sempre, durante l'uscita in bici, sotto sforzo. Devo preoccuparmi? No, penso, Nino? Nino, penso sì. Che Nino, ciclista e ostetrico, quello che potrebbe, ma probabilmente l'avrà già fatto, potrebbe, per togliersi qualunque tipo di preoccupazione o per fare degli approfondimenti, fare un esame che si chiama Holter, che anche questo è molto conosciuto. Vuol dire applicarsi degli elettrodi, non da soli, lo applica il medico, il cardiologo, e dopo 24 ore andare a vedere nell'arco delle 24 ore come si è comportato il cuore. L'errore che fanno molti pazienti è che in quelle 24 ore stanno buonissimi, fermi. Sì. E quindi non si registra, perché le extrasistole o le aritmie possono insorgere in un modo molto improvviso, ma se noi le provochiamo, certo. Quindi l'eccitazione, l'attività fisica, l'attività sessuale, gli spaventi, questo può dare la vita, ma non tutto, sì, ma non tutto è maligno. Quindi è importante che un cardiologo competente, oggi abbiamo il cardiologo idraulico, che è quello che l'emodinamista che si occupa delle coronarie, il cardiologo elettricista, che è l'elettrofisiologo, il cardiologo clinico, che è quello che rimette insieme tutti i pezzi, e poi abbiamo le persone che si occupano di cardiovascolare globale, che sono quelle che mettono insieme il cuore, il cervello, i vasi, le arterie, le vene, e guardano il quadro nell'insieme. È importante questo. E Deborah quindi è una specie di Holter dei mercati. Ah, ecco, in questa maniera non mi ero mai vista, ma direi che da oggi perché mi posso considerare monitor. Vero? Sì. E quindi dai, Holter. Cuore e denari. Ebbene sì, torna a suonare la campanella. Ormai quasi un anno fa ci siamo sedute per la prima volta sui banchi della Scuola di Risparmio qui a Cuore Denari, e qualcuno di voi lo ricorderà senz'altro. Abbiamo lanciato il portafoglio di Nicoletta, 10.000 euro assegnati virtualmente ad un nostro consulente finanziario, portafoglio che è inattivo ma che ha naturalmente subito gli effetti quest'anno della volatilità dei mercati. È il caso allora di prendere, Nicoletta, qualche posizione più aggressiva? Ce lo chiederemo oggi e faremo partire anche un portafoglio 2.0. Oggi ti sfido, la lezione inizia tra poco con il nostro Gianni Lupotto a partire dalle 11.45. Per fortuna il cuore funziona bene, è soltanto una questione di critica in momenti appunto di tensione, unicamente quello. Trovi sdraiato a letto e ti 2 secondi di palpitazione del cuore e nient'altro, basta. Ma sento, vabbè, appunto il cuore battere, uno stato di un po' di confusione generale e agitazione. Spengo la TV e la farfalla appesa cade giù. Il cuore batte, e meno male, e, meno male. E noi non ce ne accorgiamo, ci preoccupa quando lo sentiamo battere. Lo sentiamo nel petto, lo sentiamo lo sforfallio, lo sentiamo nelle tempie, nell'orecchio. Lo sentiamo irregolare. Lo sentiamo che il nostro cuore accelera o decelera, oppure a volte perde il ritmo. Abbiamo tanti messaggi al 349-238-6666 e daremo tra poco spazio alle vostre telefonate. Vi abbiamo chiesto di misurare i battiti, ma soprattutto di concentrarvi per capire che ritmo ha il vostro cuore. Un'ascoltatrice, Anna, ci chiede, a proposito di cuore, care ragazze di Cuore e Denari, fare l'amore a 70 anni fa male al cuore? Una signora. Geniale. Dunque, gli studi che sono disponibili dicono che un'attività sessuale regolare a qualunque età, in genere si studiano sempre i maschi, è sempre stata un po' una differenza questa negli ultimi anni. Si è un anche pochino questa è una differenza di genere. No, ma adesso si sta riequilibrando. No, l'attività sessuale è un'attività cosiddetta aerobica, non la vorrei svilire, però è un'attività aerobica. Se viene fatta in un ambiente amichevole e confortevole, noto, quindi diciamo con il partner abituale, ha una componente emotiva buona e non una componente emotiva di ansia, e quindi benvenuta la signora e vada tranquilla, sempre che la signora ovviamente stia bene, non stia prendendo dei farmaci particolari che io non conosco. Per quello che riguarda I maschi, quello che sappiamo è che l'attività sessuale, ma questo lo sappiamo da tanti anni, l'attività sessuale regolare va benissimo, l'attività sessuale fatta non col partner abituale, non vorrei sembrare una bacchettona, ma è così, ma fatta in un ambiente particolarmente emozionale, sì, con una partner occasionale, magari con qualche, sì, ma anche con una situazione di paura di essere scoperto, l'ansia da prestazione, ecco, magari qualche farmacologicamente assistito. Non che il farmacologicamente assistito di per sé faccia male, vorrei essere chiara su questo. Classiche pilloline blu possono essere usate dai pazienti anche cardiopatici, purché non usino dei vasodilatatori, che sono i nitriti, quindi diciamo la pastiglietta che si mette sotto la lingua. Quelli che hanno avuto l'infarto parlino prima, certo, con il loro cardiologo, medica, ed è appropriato. Tutti gli altri non c'è nessuna ragione, per cui quindi chapeau alla signora, complimenti. Possiamo dire che fare l'amore con le persone che amiamo ci fa bene a tutte le persone. Perfetto. Va bene, sì, da donna di cuore vado. Perfetto. Vado anche tutti così. I giorni. Non ho un'implicazione di denari per supportare questa vostra considerazione. La troveremo. È manutenzione. È manutenzione. Oltre dei mercati, attenzione. Allora, abbiamo detto a Deborah e ai nostri ascoltatori di capire esattamente, anche di fare attenzione al ritmo, no? Tante volte il nostro cuore perde il ritmo, ma lo fa in dei momenti un po' strani, particolari, no? C'è chi lo avverte dopo a letto, chi lo avverte magari subito dopo mangiato. Ci sono tante condizioni in cui il nostro cuore inizia un po' a diventare matto, no? Ci sono delle condizioni particolari in cui è bene fare attenzione a queste variazioni di ritmo, quando, dottoressa? Allora, torniamoci, perché è molto importante. Il cuore può accelerare o decelerare, e questo però mantenendo una regolarità di battito, sì, oppure il cuore può dare dei battiti al di fuori del normale ritmo, e se questo accade o quando siamo sdraiati o quando ci siamo arrabbiati o quando stiamo digerendo, quando, sì, abbiamo consumato un pasto troppo abbondante, la prima cosa da fare è di cercare di distenderci, quindi di respirare profondamente. Se a questo però si accompagna un disturbo del respiro, la sensazione di essere con la testa vuota, il cuore che batte forte in gola in un modo disordinato, ecco, allora forse, se l'età non è proprio 15, 20 anni, 30 anni, a quel punto il nostro medico di famiglia potrà inquadrare questo disturbo, non è da trascurare. Ecco, quindi ritmo che si perde, ma abbinato ad altri segnali di malessere. L'importante è che intanto che rientri, quindi, sì, che il ritmo si alteri, ma poi rientri facendo queste manovre di distensione, e se non rientra, a quel punto è compito dell'esperto, del medico, da dire la sua. L'altra cosa molto importante è che quando il nostro cuore, il cuore è un muscolo cavo, all'interno quindi è vuoto ma è pieno di sangue, ad ogni contrazione questo cuore deve espellere il sangue verso le arterie e richiamare il sangue sporco attraverso le vene. Se però il cuore batte in un modo non efficiente, perché fa un battito anomalo che non è bello potente come dovrebbe, non si svuota completamente, e se non si svuota ci sono due conseguenze. La prima è una conseguenza idraulica, mi gira la testa, è come la pompa della benzina che non manda abbastanza benzina al motore, il motore va, la macchina va ma sussulta, quindi la sensazione di avere la testa che gira, lo sfarfallio in testa, mi manca il respiro. E la seconda conseguenza, che è molto importante, è che se il cuore non espelle completamente il sangue ad ogni contrazione, il sangue quando ristagna coagula, e se quindi il sangue coagula a forma dei trombi, allora c'è l'evenienza più drammatica di queste aritmie, che può essere l'ictus cerebrale. Vi ricordate quando Cassano aveva avuto, sì, un'ischemia cerebrale transitoria? Vi ricordate? Ecco, senza drammatizzare, senza avere paura, è importante misurare tutto l'insieme: quanti anni ho, come sono vissuto, quali sono i miei fattori di rischio, fumo, non fumo, mi drogo, non mi drogo, mettere insieme il puzzle. In questo modo possiamo già andare dal medico quando c'è bisogno, ed evitare o non trascurare invece visite importanti. Allora, allora la nostra esperta, dice Serena, ha una voce incantevole, oh no, e l'ascolterebbe per ore. Esatto, e ci aggiungiamo anche il modo molto comprensibile di spiegare le dinamiche del nostro cuore, e quindi aggiungo anche un complimento per quello che riguarda la modalità di spiegare i contenuti, che non è banale, insomma, trasmettere anche con semplicità questi concetti. Grazie. Allora, abbiamo Alberto da Correggio che poverino aspetta da un po', diciamo di dire di sentirlo. Nicoletta, volentieri. Se sei d'accordo. Alberto, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Io volevo un attimo manifestare la mia situazione. Ho un figlio di 20 anni che è un agonista di nuoto da sempre. La settimana scorsa ha fatto una visita medica, diciamo così, di inizio anno, la classica visita sotto sforzo, e diciamo così gli è stata diagnosticata nella fase di recupero un'aritmia. E praticamente il cuore pare, io però tecnicamente non me ne intendo più di tanto, sia andato in tachicardia, l'hanno sdraiato sul letto ed è ritornato, diciamo così, poi pian piano alla normalità. Naturalmente lui adesso non può nuotare, l'hanno fermato, e i medici mi hanno detto che dovranno fare un intervento di crioablazione al fine di togliere questa aritmia. Si ricorda, gli rispondo direttamente. Sì, certo. Si ricorda, signore da Correggio, che non Alberto. Alberto. Si ricorda che prima abbiamo detto che il cuore ha il suo idraulico e il suo elettricista? L'elettricista è quel cardiologo che è particolarmente competente nel sistema elettrico del cuore e che è capace di fare la crioblazione. Crioblazione vuol dire come quando un elettricista viene a casa nostra e va a cercare dove sono i fili che mandano le scariche anomale, quel elettrofisiologo, il cardiologo, va a cercare dentro al cuore, a mappare il cuore e trova il punto che manda la scarica sbagliata. Ablare vuol dire lo brucia per la verità, lo può bruciare in lo tanti modi, comunque. Lo elimina, sì. lo neutralizza, è come se gli mettesse un salvavita. Quindi è importante che in questo caso di un ragazzo che è atletico e nel quale viene riscontrata per caso una tachicardia dopo, nella fase di recupero dello sforzo, è importante fare un approfondimento in questo specifico caso, e sicuramente il suo elettrofisiologo saprà fare e dire, e anche si faccia raccontare bene quali sono le probabilità che questa cosa sia efficace, che questo tipo di anomalia, che non è una malattia, è un'anomalia, ritorni in futuro, in modo che il figlio anche sia rassicurato, certo, ma che la conosca e la sappia segnalare. Allora, e a proposito di approfondimenti, di rassicurazioni, sono arrivate molte richieste da parte dei nostri ascoltatori che ci chiedono informazioni sui loro figli, soffio al cuore, attività sportiva, anche persone più grandi, che bambini non sono più, che ci invitano fare il punto su un'aritmia che è un'aritmia molto particolare, che è la fibrillazione atriale. Allora, la dottoressa Rotavender tornerà a trovarci. Tornerò. Perché di cuore noi a Cuore Denari ne parliamo molto volentieri. Intanto voi scriveteci, raccogliamo un pochino i vostri desiderata e torniamo a parlare di cuore con la dottoressa Rotavender. Grazie a voi. L'impegno di ALT. Io vi invito sempre a visitare il sito di ALT per aggiornarvi sulle tante iniziative che ci insegnano proprio a mettere il cuore nella nostra prevenzione. Grazie dottoressa Rotavender. Grazie a voi. Buona giornata. Cuore e denari. Non finisce mai, canta Max Pezzali, e il ritmo è stato il tema trainante della prima parte di Cuore Denari di oggi e continuerà ad esserlo anche per questa nostra seconda parte. Sono decisamente arritmati i mercati finanziari, anche se a volte non si muovono tanto seguendo un ritmo preciso, ma hanno un andamento irregolare, un po' un'aritmia. Nicoletta, avresti mai pensato che in borsa... Beh, tu stando con te ho capito che insomma anche il mercato può avere delle aritmie. E ti spiego quali fattori possono determinare queste aritmie sui mercati. Quadro geopolitico, lo abbiamo visto in queste ultime settimane, le elezioni scozzesi, no? Hanno tanto movimentato il rapporto della sterlina con le altre monete. Dati macroeconomici, l'attività delle banche centrali. Ecco perché quando investiamo, come abbiamo ricordato più volte, dobbiamo in primo luogo considerare i nostri obiettivi. In secondo luogo però anche magari a dare un'occhiata, non dico alle pagine del Sole 24 Ore se qualcuno le considera troppo impegnative, comunque guardarsi un po' attorno anche al quadro macroeconomico circostante. Allora, ti ricordi cosa abbiamo fatto un anno fa? Assolutamente sì, me lo ricordo bene. Come potrei dimenticarlo, il giorno della prima puntata di Cuore Denari ho virtualmente consegnato 10.000 euro a te, Deborah, o meglio. Magari. Beh, sarei fatta un viaggetto. Allora, per questo abbiamo avuto la fortuna di incontrare Gianni Lupotto, consulente finanziario, che mi ha suggerito la migliore strategia di investimento per questo denaro, a partire dalle mie esigenze, della mia propensione al rischio. Mi ha fatto un sacco di domande, era come entrare in uno studio di uno psicoterapeuta. Esatto. Siamo diventati intimi, insomma. Esatto. Lo dico, ma è necessario avere questo rapporto di fiducia con il proprio consulente finanziario, altrimenti secondo me non ha senso chiedere consulenza. Allora, oggi lo abbiamo ridisturbato perché, ovviamente, siccome mi voglio fare un po' gli affari tuoi, mi piace, facciamo un riepilogo di quella situazione che abbiamo impostato un anno fa, proprio con la persona che ha custodito questo tuo tesoretto. Gianni Lupotto, buongiorno e bentrovato. Sì, buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori. Però mi batte un po' il cuore, sentirlo. Chissà se è emozionato. Lei è emozionata? Sì, abbastanza, perché devo dare un l'esito di questo anno di investimento a Nicoletta. Però noi, siccome non vogliamo farci mancare nulla, abbiamo deciso di fare un passo avanti oggi. E allora, ricordiamoci intanto come abbiamo deciso di impostare il risparmio dell'anno che è trascorso, e ecco, in questa maniera vi voglio un po' descrivere la strategia di investimento che aveva scelto Nicoletta. Andamento lento ma sicuro che a poco porta a casa dei risultati. Il capitale è protetto, Nicoletta forse non ha provato delle emozioni troppo forti, non si è spaventata particolarmente, non si è preoccupata nel sentire notizie economiche quando queste non erano positive. La tua scelta, Nicoletta, è sicuramente rispettabile, condivisibile ed è sicuramente quella che hanno fatto negli ultimi tempi molti italiani. Oggi però io ti sfido così. Al mio segnale scatenate l'inferno. Già mi guarda come se fossi una pazza, non voglio fare la gladiatrice. Meno male, perché sai, ci sono subito io. Ci tuffiamo nella tana del leone. Un investimento però, così abbiamo utilizzato questa immagine di questo film, quello del gladiatore, perché un investimento può avere un ritmo anche più vivace, farci correre qualche piccolo rischio in più. Dato per certo che nessuno vuole perdere niente, 800 24 00 24, a prescindere dai nostri due portafogli, mentre noi facciamo il nostro check-up, vi invitiamo a fare anche il vostro. Se è questo il momento dell'anno in cui, dopo le ferie, state chiedendo un appuntamento al vostro promotore finanziario, al vostro consulente in banca o al vostro consulente indipendente, perché sennò Lupotto mi dice guarda che ci siamo anche noi, per capire quali sono i risultati dei vostri risparmi investiti negli ultimi mesi, raccontatecelo e diteci se siete soddisfatti, insoddisfatti, quali sono le domande che vi state facendo in questo momento, se pensate di essere stati o troppo prudenti e volete mettere un po' più di pepe al portafoglio, oppure al contrario, se siete stati troppo arditi, scottandovi anche un po', ora volete rallentare il passo. Diteci come state facendo, come si cambia strategia, ce lo possono raccontare anche, direi, via SMS al 349-238-6666. Dottor Lupotto, sono seduta. Eccoci qua. Ecco, io sono seduta assolutamente, adesso faccio la mia bella respirazione diaframmatica, sono proprio tranquilla. Come è andato il mio portafoglio? Come sta andando? Beh, è andato molto bene. Ricordiamo che è partito l'investimento il 5 di novembre dell'anno scorso, quindi è passato poco meno di un anno. Pur avendo investito in strumenti a basso rischio, come ricordavate poco fa, questi 10.000 euro sono diventati 10.480, quindi con un rendimento, o meglio una performance di periodo del 4,80%, e una performance annualizzata, quindi rapportata a 12 mesi, di 5,45%, quindi un rendimento estremamente lusinghiero, certamente superiore a quello che ci aspettavamo ex ante, e un po' è stato il bello, diciamo, che la sorpresa positiva che abbiamo avuto quest'anno. No, tra l'altro è comprende anche le spese di investimento, Lupotto, le commissioni che Nicoletta ha dovuto pagare per investire su uno strumento piuttosto che sull'altro, piuttosto che non si dice insomma, più tra l'altro. Sono puliti, come si dice come in gergo. Netti. Assolutamente sì, comprendono le commissioni di ingresso e poi anche le commissioni di switch, perché ricordo che a metà anno, in occasione di una puntata di Cuori e Denari, avevamo fatto uno switch da un BTP Italia ad un altro, in occasione di una emissione nuova. Di una nuova emissione, e comprendono anche le tasse sulle cedole che sono state eventualmente pagate nel corso di questi 10 mesi e mezzo. Tutto questo naturalmente perché Lupotto ci fa la sua consulenza gratuitamente, perché è virtuale, abbiamo detto, però insomma in un caso concreto naturalmente consideriamo anche la remunerazione che va data alla persona che ci segue. Cuore e denari. Allora, la prima domanda riguarda la sua situazione familiare. La devo chiamare signora o signorina? Sono felicemente coniugata, signora. Bene, quindi deduco che a portare a casa la pagnotta siate in due, lei e suo marito. Ci sono altre bocche da sfamare? Nonni, altri parenti? No, c'è un'amica pelosa che conta anche lei per il check-up finanziario? Direi di sì, ecco, con quello allora che costano le scatole di bocconcini per i nostri amici a quattro zampe, direi di sì. E poi avete una casa di proprietà o vivete in affitto? Casa di proprietà. Eh sì, lo ricordavamo prima, è già passato quasi un anno, Nicoletta, però te lo ricordi? Assolutamente sì, me lo ricordo, era la prima puntata di Cuore Denari ed era il terzo grado del professor Lupotto, sono ancora sposata, la casa ce l'ho ancora, ma c'è sempre. Sta bene. Ottimo, Gianni Lupotto è ancora collegato con noi e quindi lo risalutiamo, ancora buongiorno. Nel corso di questo anno, l'abbiamo ricordato anche prima, Gianni Lupotto ha gestito il portafoglio virtuale di Nicoletta, 10.000 euro, e prima ci ha raccontato, ribadito e ricordato appunto come erano stati virtualmente investiti questi soldi e quale tipo di rendimento questo denaro ha maturato fino ad ora. 800 24 00 24, se avete in mente di investire un po' del vostro portafoglio, fateci le vostre domande e faremo con voi, se vorrete, anche un piccolo check-up finanziario della vostra situazione. Lupotto, la strategia di Nicoletta era molto prudente e conservativa, l'abbiamo ricordato prima, oggi però sfoderiamo un po' di coraggio, un po' di audacia, e siccome sono stata un po' gelosa in questo anno in cui Nicoletta si è presa tutte le sue attenzioni, la voglio mettere anch'io alla prova affidandole 10.000 euro virtuali. Ci sta? Assolutamente sì, siamo qua per questo. Ecco, allora io immagino adesso di dover essere sottoposta anche ad una sua intervista. Certamente, ribaltiamo perché, le posizioni stamattina, perché? Assolutamente. Quello che volevo dire a Nicoletta è vero che bisogna seguire il ritmo dei mercati, ma non bisogna dimenticare le proprie propensioni, quindi quello che io farei con Nicoletta è non modificare il suo profilo di rischio, invece faccio a lei, Deborah, delle domande sulla sua situazione per vedere di capire se possiamo nel suo caso osare qualcosa di più. Ottimo, partiamo allora. Allora, stesse domande dell'altro anno, quindi situazione familiare. Ecco che parte intanto la sigla di Rischia Tutto. Situazione familiare, come tutti gli ascoltatori sanno, sono una singola anche abbastanza irriducibile. Ma bene così. Adesso metto la cuffia di My Buongiorno e faccio la domanda numero due. In famiglia, quindi essendo single, lei è l'unica percettrice di vivo reddito, da sola, giusto? Sì, mi esatto. Faccio un sacco di regali ai miei nipoti, non so se questo può servirle come informazione, però okay. Eventualmente ci sono dei familiari non conviventi che sono a carico? No. Ok, casa di proprietà o in affitto? Casa di proprietà a Milano. Benissimo. Diciamo, abbiamo detto che partiamo con un risparmio virtuale di 10.000 euro, sì. E per partire, diciamo, da basi equivalenti, io ho fissato il punto di partenza 10.480 per la precisione, certo. Che è lo stesso portafoglio di Nicoletta in questo momento. Ottimo. Ecco. Così non bisticciamo. Esatto. Parlando di propensione al risparmio, sì. Quanto riesce a mettere da parte al mese o all'anno? Ma allora, stavo pensando rispetto, non lo so, magari allo stipendio, considero solo lo stipendio che arriva da questa mia attività, poi ci sono anche prestazioni occasionali, delle collaborazioni, devo considerare okay. Tutto complessivamente? Ma sì. Facciamo un 15% del reddito mensile? Ok, questa è già una cosa che è utile, ma provo a formulare la domanda in un altro modo. Il suo reddito attuale, in che misura pensa che sia indispensabile per il mantenimento dell'attuale tenore di vita? È una domanda difficile questa, Lupotto. Ma quando te lo dicevo io, esatto, tu mi dicevi e l'avevo di no? pensato anche lo scorso anno. Che cosa vuol dire esattamente? Così simuliamo anche un po' lo stress a cui dobbiamo sottoporre il nostro consulente quando a sua volta ci fa delle domande. Intendo dire, fatto 100 il suo reddito, qual è la quota di reddito che ritiene assolutamente indispensabile certo. Per i consumi primari? Ci metto dentro il mutuo, quello che spendo per la macchina, esatto, per mangiare, per le bollette, eccetera. Beh, è indispensabile, io credo, almeno il 65%. Perfetto, allora questo vuol dire che in realtà mi sta rispondendo in un'altra maniera alla domanda precedente, che al limite fino al 35% posso risparmiare. Potrebbe risparmiare. Ha visto come te la mette lì? Ottimo, sì, benissimo. Sì, per capire il livello fin dove possiamo spingerci, diciamo così. Ottimo. Un'altra domanda, dove passa normalmente le sue vacanze? Allora, estate nelle Marche, esatto, quest'agosto, queste ultime vacanze le ho fatte molto qua dentro, però ovviamente diciamo che le trascorro con la mia famiglia nelle Marche, perché ho la fortuna di abitare vicino al mare, al limite faccio un viaggio all'estero una volta l'anno, infatti entro breve mi involerò. Perfetto, benissimo. E quali sono gli obiettivi concreti che vorrebbe raggiungere appunto dal risparmio, da questo piccolo gruzzoletto integrato dai flussi futuri? Allora, quelli che io le assegno, Lupotto, vorrei in parte impiegarli magari fra qualche anno per comprare una casa un po' più grande a Milano, perché adesso è piccolina. O sono un po' indecisa se magari prima di comprarmi la casa più grande, se voglio passare magari con un'aspettativa qualche mese all'estero, appunto per... così può migliorarmi dal punto di vista professionale. O fare un regalo a me, comunque. Portare Nicoletta con me, quindi magari ci deve star dentro anche lei. Bravo, perché io magno, A parte gli scherzi, quindi insomma queste potrebbero essere le due mie grandi aree di obiettivi. Ok, all'estero dove, per esempio? Io vorrei andare 6 mesi a San Francisco. Senti, però vuole sapere troppo questo Lupotto. Vabbè. San Francisco mi serviva per capire se c'era un interesse per l'area dollaro o per altre aree di valuta straniera. Okay? Allora direi questo, c'è ancora una domanda sul profilo di rischio che dobbiamo fare per completare il quadro. Quindi diciamo che partiamo con questi poco più di 10.000 euro e, tenuto conto che il capitale oscillerà inevitabilmente nel tempo, a che punto inizierebbe il suo livello di preoccupazione, di ansia, diciamo così? 8.000? A 8.5? Okay. 8.5. Di 8.5, va? È comunque un livello di tolleranza al rischio abbastanza pronunciato, perché stiamo parlando di un 20% rispetto al capitale di partenza. Ecco, allora, visto questo quadro, direi che per raggiungere i due obiettivi si tratta di graduare le cose nel tempo, perché chiaramente comprare una casa a Milano con 10.000 euro compriamo forse un quarto di un box, no? Ma direi neanche, direi assolutamente neanche, 3 mattoni e via. Una capanna. Però va detto che appunto si potrebbe pianificare un discorso di mutuo più avanti nel tempo utilizzando il reddito, mentre invece per pianificare un'aspettativa di lavoro, dal lavoro, è chiaro che serve un capitale, perché in quel momento il reddito non c'è. E quindi possiamo basarci su questi dati, sulla sua propensione al rischio che mi sembra più elevata, e noi naturalmente ci siamo scambiati queste informazioni anche prima della trasmissione. Evidentemente l'ho fatta studiare con in modo che potessi lavorare un po' in anticipo, e quindi io ho preparato un portafoglio che tiene conto di queste esigenze ed è un pochino più aggressivo di quello di Nicoletta per alcuni aspetti. Ricordiamo anche, Lupotto, che io esplicitamente, anche sulla base di trasmissioni che abbiamo già fatto, ho capito che potrebbe essere un buon momento per investire nel dollaro, perché come dire, è la moneta che in questo momento sta riprendendo un po' a viaggiare e ad avere, come dire, un rialzo su tutte le altre divise internazionali, in particolar modo sull'euro, per cui certamente un'esposizione in dollari mi interessa. Benissimo, questo diciamo nel suo caso ha una doppia valenza, perché non è solo un discorso di convinzione, di aspettativa, ma è anche un discorso di copertura di questo eventuale viaggio all'estero, perché se lei dovesse andare negli Stati Uniti, avere già investito in dollari ex ante le consente di non avere rischio valutario in questo caso per la quota parte investita in dollari. Benissimo. Quindi, allora andiamo agli strumenti che mi ha messo nel portafoglio, perché poi abbiamo anche delle domande degli ascoltatori. Assolutamente, io ho previsto intanto una asset allocation che prevede il 25% circa in azioni e il 75% in strumenti a carattere obbligazionario. Qui magari facciamo subito una precisazione. Ecco, sì. Ha diversificato. Ho diversificato, ma quello che voglio far passare come messaggio agli ascoltatori è che qualcuno continua ancora a ritenere che investendo nel settore obbligazionario protegge completamente il suo investimento. Invece non è così, sono anche questi degli strumenti che hanno una loro componente di rischio, Rupotto, sia che siano obbligazioni governative, che siano societarie, no? Assolutamente, ci sono ben due, numerose componenti di rischio, ma le principali sono il rischio emittente e in questo momento il rischio tassi, perché i rendimenti sono molto bassi, quindi c'è il rischio che un incremento repentino dei tassi provochi una perdita in conto capitale. Diciamo che per la parte azionaria noi abbiamo previsto di investire in un ETF che investe in maniera diversificata sulle azioni europee, sullo stock 600, e questo per circa il 25% del portafoglio. Abbiamo preferito l'Europa in questa fase perché gli Stati Uniti, che sono certamente un mercato più brillante, hanno corso molto negli ultimi mesi e quindi ci si può aspettare un certo ritracciamento, quindi potremo eventualmente in puntate successive fare degli switch. Mentre invece il resto del portafoglio, diciamo il restante 75% circa, lo abbiamo investito in questa maniera. Sull'area dollaro bond abbiamo fatto questa scommessa sul dollaro e quindi abbiamo preso degli ETF che investono sia in treasury bond, che sappiamo rendono piuttosto poco, e l'abbiamo presi anche a breve scadenza, perché qui in realtà la scommessa è sul tasso di cambio. Ricordiamo che il treasury sono tipicamente i titoli di Stato americani, così traduciamo. Americani, quindi non abbiamo rischio emittente sostanzialmente, abbiamo dei rendimenti nella curva 1 a 3 anni, che è quella che abbiamo scelto, poco superiore allo zero, ma ripeto, noi abbiamo colto questo suo interesse a investire nell'area dollaro per un'aspettativa di un miglioramento del tasso di cambio euro-dollaro, nel senso del rafforzamento del dollaro. Benissimo. Abbiamo messo per lo stesso motivo una componente del 25% anche in un altro ETF che investe in obbligazioni high yield, cioè ad alto rendimento, a basso rating, ma a breve duration. Significa che noi con questo strumento prendiamo un rendimento in dollari interessante dal punto di vista del flusso cedolare. Però altrettanto interessante il rischio che corro. Ricordiamolo, che sono un po' più rischiosi. Ecco. Sono un po' più rischiosi. Siamo sempre lì. Ma molto diversificati, perché investiamo non tramite singolo titolo ma tramite ETF. Abbiamo poi ancora messo una obbligazione in una valuta particolare, che è la lira turca, dove abbiamo preso il 10% del portafoglio, cioè 1000 euro, poco più di 1000 euro, di un'obbligazione quotata sulla borsa di Milano, che non presenta rischio emittente perché è messa dalla Banca Europea degli Investimenti, la BEI, quindi ente sovranazionale, internazionale, ma naturalmente presenta un rischio di cambio, però ha un rendimento a scadenza eccellente attorno al 10% annuo. Quindi questo contiamo con questo alto rendimento di compensare eventuali defiance del tasso di cambio euro-lira turca, che non è detto che ci debbano essere, naturalmente questa potrebbe essere anche una opportunità. Abbiamo terminato, Rupotto, perché abbiamo 3 minuti e qualche domanda per lei? Sì, completavo il portafoglio con un ETF un po' particolare, che è un ETF che investe in un cosiddetto multi-asset portfolio per avere una esposizione anche ad una strategia quantitativa, in questo caso dell'UBS, che è l'emittente di questo ETF, che però con regole fisse, quindi con regole predeterminate, investe e switcha fra l'azionario, l'obbligazionario e le commodity. Sono i multi-asset, appunto ETF, che sono un po' le nuove generazioni di queste soluzioni di investimento. Fra quanto tempo facciamo un piccolo check-up? Due mesi, Lupotto? Un paio di mesi è il minimo indispensabile per poter fare un check-up. Benissimo. Quindi lento o rock? È prudente o 2.0? Lo scopriremo solo vivendo. Vedi. Ottimo. Che maestro che... Allora, alcune telefonate degli ascoltatori in due minuti. Per chi non riusciamo ad accontentare, naturalmente ci poi scriva. Apertura dei nostri sportelli pomeridiani. Chi sentiamo? Vorrei andare a Brescia perché c'è Hermes. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Complimenti per la trasmissione, grazie. Sei molto brave. Per questo l'ho chiamata Hermes. Grazie. Andiamo veloce con la domanda, Hermes, sì, perché abbiamo terminato. Allora, avrei 50.000 euro da investire, però sono andato anche in internet, ho provato a vedere i titoli di Stato, insomma, guardi, più forse l'1,25 netto, forse neanche quello. Ma dipende dalla scadenza, perché anche metto, certo. Volevo chiedervi, no? Cioè, senza fare gli investimenti decennali, né? Cercare di, che se per caso hai bisogno di soldi, non so, i 10.000 euro, 15.000 euro, se avevate un consiglio da darmi, e se magari potete mandarmelo anche lì in mail. Portarle anche Lupotto a casa. Anche un caffettino vuole Hermes. Grazie. Volete mandarvi anche il funzionario. Andiamo veloce da Lupotto. Mi pare che l'unica soluzione per questo ascoltatore sia il conto di deposito, Lupotto. Non rende nulla, però insomma, liquido subito. I rendimenti sono quelli che ha detto il nostro ascoltatore Hermes, e senza prendersi rischi ulteriori non si può pensare ragionevolmente di ottenere a breve rendimenti più alti di così. Altri ascoltatori si lamentano del fatto che ci sono comunque sul risparmio in questo momento un po' troppe tasse. Tra Tobin Tax, super bolli e commissioni. Carlo ha totalmente ragione, e lui, per ovviare a queste problematiche, compra oro, monete, diamanti, non mangiano e nessuno mi chiede niente e dormono in cassetta tranquilli. Carlo, affronteremo magari anche il suo caso con una puntata specifica. Intanto noi vi salutiamo, vi ringraziamo. Sì. Carmelo Lauricelli regia la parte tecnica, Marco Lombardo in redazione. Sì. Noi torniamo. Ringraziamo Gianni Lupotto, magari. Grazie, dottor Lupotto. Arrivederci alla prossima. Maestro, la penseremo e lei pensi a noi. Esatto, anticipiamo magari che già domani ritorniamo su un tema che in questo momento è al centro delle preoccupazioni di tutti, la TASI, quanto pagheremo il 16 ottobre. A domani.